Sei troppo fido, Ottone. E il re barbara sorte. Ed alle al vassallo il far che l'opra al comando preceda. Giusto non è ch'io lasci senza premio il tuo zelo. Scudo tu fosti all'innocenza, o cielo! Soldati, alla mia reggia Otton si guidi. In amico soggiorno Otton si cinge inutilmente il brando. Puoi deporlo in mia mano. Eccolo a piedi tuoi, fuori!